140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola. Gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @MartaCagnola. Ecco i protagonisti dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Sony Music, Milano. Dall'Esta, ex regno di Claudio Ranieri, tornano i Kasabian. Per Sergio e Tom, un nuovo attesissimo album si intitola For Crying Out Loud. Well, sort of just got really inspired by the classic way of writing songs, and we've done it our own way over the years. La parola chiave per i nostri nuovi brani è innanzitutto istinto. L'ispirazione viene da un songwriting classico, un approccio classico alla scrittura della canzone. Per noi è stato bello, è stato entusiasmante rivisitare quel modo di scrivere canzoni che risale all'epoca d'oro degli anni 70, quel decennio in cui c'erano vari generi. C'era il classic rock, il punk, la musica disco. E se ci pensate, tutte le varie canzoni seguono un pattern, un modello. E quello è un modello che non avevamo mai utilizzato fino adesso. Which we'd never used before, which I thought was quite interesting. And I think having listened to it now and it being finished. Adesso che ascolto il disco, il risultato finale, devo dire che siamo contenti. Siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo di fare un disco molto immediato, molto istintivo. What we set out to do, we achieved, I think. We've managed to make our version. Avete scelto dei titoli singolari per l'album. You know, for crying out loud, you know, is an old-fashioned statement that's used in Britain. Kind of means it's a nice way of saying pop say. Yeah. And it also written. Il comune denominatore tra le varie canzoni è il senso dell'umorismo. For crying out loud è un modo di dire un po' antiquato in Inghilterra. Un eufemismo per non dire una parolaccia, diciamo una specie di accidenti. Però preso letteralmente da proprio l'idea di una serie di canzoni fatte per essere urlate, cantate a squarciagola, con il cuore. Per quanto riguarda You're in Love with a Psycho, è una canzone d'amore che però vuole farci capire che siamo tutti in grado di essere un po' pazzi, un po' psycho. C'è sempre un momento all'interno di una relazione in cui qualcuno fa una cosa un po' fuori di testa. E questo lo vedi soprattutto nelle relazioni che vanno avanti da molto tempo, per cui magari stai insieme da tanti anni con una persona, l'amerai per sempre, c'è un rapporto che dura, però ci sono dei momenti in cui pensi questa cosa che ha fatto mi sembra un pochino strana. Siete di Lesta, tifosi dell'Esta. Cosa pensate di Claudio Ranieri, prima eroe e poi cacciato via? The thing is with Ranieri, he will be with us. He will be in our hearts, every Leicester fan forever. Yeah. The day we die, he will be. Da Claudio Ranieri ce lo porteremo sempre nel cuore e sarà nel cuore di ogni tifoso dell'Leicester City finché campa. Noi siamo estremamente grati per quello che ha fatto, per noi è un dio. Dovremmo fargli una statua, anzi una statua d'oro per averci fatto vincere il campionato. È triste come la cosa è andata a finire, la sua cacciata è stata davvero una follia. Il problema è che il calcio è dominato dal business. Hanno proposto di dedicargli lo stadio, magari non si farà mai, ma almeno una tribuna sarebbe giusto. Quest'estate suonerete in Italia in posti stupendi, cosa ne sapete? I don't know a lot, to be honest, but I know where we're playing. Tarminia. Yeah, I don't know a lot about it, but... Non so molto di questi posti. Mi dicono però che a Taormina, soprattutto all'ora del tramonto, vedremo qualcosa di incredibile. A Lucca abbiamo già suonato per il Summer Festival qualche anno fa. E a Roma, tutti i concerti che abbiamo fatto sono stati spettacolari perché c'è un feeling particolare con il pubblico, senti l'amore del pubblico nei nostri confronti, qualcosa di strano ma in senso positivo. C'era un nostro amico che è scoppiato in lacrime alla fine di un nostro concerto a Roma, per quanto era emozionato. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con i Kasabian. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.